Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Parlavamo di conti correnti nel precedente appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori. Restiamo più o meno in tema, se ne era parlato quando è stato approvato alcune settimane fa. Adesso ormai bisogna aspettarsi che venga applicato il redditometro. Che cos'è, che cosa aspettarsi? Lo chiediamo al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, la definizione è semplice: misura il reddito, redditometro, e questa è la definizione da dizionario. Però entrando nello specifico, a chi si rivolge, cioè quali redditi e di chi andrà a misurare? Sì, come detto Mirko, ne avevamo parlato un po' di tempo fa quando era allo studio questo, chiamiamolo dispositivo, perché poi si era parlato tanto anche di privacy e via dicendo. Oggi invece è ufficiale, il redditometro è stato avviato e da quello che sono un po' i dati che hanno anticipato dal Ministero sembra che saranno in arrivo le prime 35.000 verifiche, e come detto è uno strumento che il governo si è dotato per scovare quelli che sono gli evasori, e certamente è uno strumento per chi evade le tasse, speriamo sia efficace e far sì che insomma un po' tutti le pagano. Però certamente è sempre uno strumento che non è mai piacevole commentare, perché sicuramente molti sono stati un po' giudizi negativi che anche noi come Adico abbiamo ricevuto, e più comune è stato quello di dire: ma come io contribuente devo giustificare dove ho speso i miei soldi, quando dovrebbe essere lo Stato a giustificare come ha fatto a realizzare un debito così grande con i nostri soldi. Però vabbè, al di là delle polemiche, questo è un po' lo strumento che oggi è avviato. Si rivolge a tutti, cioè l'Agenzia delle Entrate andrà a controllare chiunque, farà dei controlli a campione, ci sono già delle fasce di reddito potenziali da controllare, cioè chi deve stare attento insomma? Allora, con questo strumento si cercherà di capire se una persona sostanzialmente ha vissuto al di sopra di quelle che sono le sue capacità. Questo è un po' il modo semplice di spiegarlo, cioè come funzionerà questo strumento. In base a quelle che sono tanti parametri, come le rette scolastiche, la frequenza che ha pagato per i figli una persona, il tipo di auto, il valore della casa, la barca, ma anche altre cose come può essere stato il telefonino, come possono essere anche le iscrizioni a certe palestre, a certi circoli, via dicendo, mettendoli insieme cercheranno con questi dati a desumere quello che è il tuo reddito. Se poi in base a tutto quello che tu hai verificano che c'è uno scostamento di circa del 20%, allora da qua cominceranno tutta una serie di verifiche, al quale purtroppo, perché poi vediamo le segnalazioni ricevute anche all'Adico, il consumatore potrà, o il cittadino, solamente nel caso di verifica giustificare con tanto di documentazione e non certamente con delle scuse che potranno essere più o meno plausibili. E pensiamo ad esempio come quella persona che si è rivolta all'Adico dicendo: io mi sono sposata e mi hanno fatto tutti la busta e ho ricevuto 10.000 euro, se dovessi giustificarla come farò? Per dire, ma questa è una cosa che fa sorridere, ma insomma il senso è sicuramente molto serio. In effetti proprio lì volevo arrivare, perché le spese documentabili sono quelle fatte ad esempio con bonifico, con assegno, cioè lì dove c'è una tracciabilità, lì dove invece magari si maneggia contante, come si fa? Io dico sempre una cosa: se qualcuno vuole verificare la posizione che ciascuno di noi ha, chiunque ha i mezzi e gli strumenti per poterlo fare, perché certamente oggi pensare che il fisco abbia da andare a complicare la vita di un povero cittadino, diciamo povero tra virgolette chiaramente, comunque fa riflettere. Io voglio dire che sicuramente se si vuole verificare la posizione di una persona, gli strumenti per poterlo fare in maniera molto più tranquilla e in maniera molto più seria sicuramente c'è. Non vorrei che poi tutta questa cosa qua abbia come conseguenza code chilometriche all'Agenzia delle Entrate o lavoro per i commercialisti. Diciamo che comunque il dispositivo oggi come è stato realizzato prevede che tu ti puoi giustificare solamente con la documentazione, e certamente se la documentazione non è corrispondente per dare delle risposte che qualcuno ti può fare se dovesse insorgere una contestazione, Certamente in quel caso là, per l'Agenzia delle Entrate o per il fisco, tu sei un evasore e significa che hai recepito in nero. Certo è che per un dipendente è più difficile evadere, ma certamente per chi magari ha una libera professione sicuramente si troverà a rischio di dover disbrigare ulteriore attività burocratica. Si è già sentito dire che quelli abituati a comprare automobili di grossa cilindrata, proprio per non farsi notare, hanno iniziato a comprare automobili più piccole. Cioè, ti risulta? Ma guarda, amico, io se dovessi esprimere un parere su questa metodologia, certamente non sono troppo entusiasta, perché purtroppo, come dici te e come appena detto, rischiamo che per non apparire si vadano a modificare dei settori già in un momento di grossa crisi che questi settori stanno attraversando. Vediamo per esempio come il settore delle barche, ma come anticipato i settori delle auto di lusso, certamente sono dei settori che ormai stanno soffrendo moltissimo. Io credo che, e sono sempre dell'idea, che non è con una politica di persecuzione che si possa risolvere i problemi, ma è con una politica di prevenzione che queste cose si possono risolvere, e anzi si può stimolare il settore, si può stimolare anche a chi ha soldi a poter investire e comprarsi magari questi beni qua. Se questa è la strada che vogliono intraprendere, che intraprendono pure certamente purtroppo le conseguenze le potremo vedere solamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Diciamo anche che chi può permettersi un'auto che costa magari sopra i 50.000 euro, 100.000, non ha problemi finanziari o comunque non problemi di sussistenza. E aggiungiamo anche che chi normalmente è onesto e paga le tasse e prende e ha gli scontrini e eccetera, non deve temere nulla dal fisco. Questa è una regola generale. Sì, però vedi, la mia paura è sempre per quello che magari non può temere nulla e magari perde uno scontrino. Cioè, io voglio dire, è giusto fare delle azioni di controllo, di verifica, eccetera, però non è pensabile neanche che una persona debba vivere con l'incubo di essere su uno stato di diritto che insomma ti perseguita, perché come mi ha detto la nostra segnalazione, io mi sono sposata neanche un mese fa e ho chiesto la busta a tutti quanti per potermi permettere un viaggio di un tipo e potermi fare un acquisto di un altro, abbiamo messo su più di 10.000 euro. Se dovessi giustificarli, come farei? Allora, io non vorrei neanche che adesso tutti quanti debbano cominciare a mettere via tutti quanti i soldi, le ricevute di ogni cosa, con l'incubo di smarrire qualcosa e non essere in grado di verificarle, perché poi scopriamo che chi ha i soldi è il commercialista, chi non ha i soldi magari è il solito poveraccio che si trova magari convocato là e alla fine ci rimette sempre. Quindi io sono sempre per fare delle politiche di prevenzione e non di persecuzione. Poi sicuramente ci sono dei geni che stanno di sopra di noi, che decidono cosa fare, ma certamente spero di sbagliarmi e augurarmi che insomma questa non sia la strada giusta da seguire. Per il resto, come dici te, comunque chi paga le tasse non ha problemi, può stare tranquillo, e speriamo che il fisco, quando debba comunque convocare il cittadino, lo faccia mai con la presunzione che lui è un evasore, ma con la presunzione invece di essere un fisco più che a servizio del cittadino, che magari lo possa aiutare anche a ricostruire, non solo a sanzionarlo. Ed è quello che ci auguriamo tutti, e con questo argomento ci salutiamo. Ci ritroviamo la settimana prossima con altri due temi insieme all'Adico di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te, Mirko, saluto tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.